Bello, chi sei? Chi è? Avanti, chi è? Chi è? Il boia. Non arrivi. Vabbè, dove sei? Sei basso. Eh? Dove sei? Mi senti tu? Chi è? Non ti muoio. Vivo sì. Boia. Dimmi tutto. Uscio a busto. Come stai? Bene, tu? Ma dove sei, a casa? Io sono a casa. Ah, no, pensavo che eri in giro. No, l'ho fatto ieri quel lavoro. Cazzo, sono tornato con le gambe, cazzo. Giacomo, forse sei inginocchiato. Per mettere delle canalette. Vabbè, com'è andato, bene? Più o meno sì. Cioè, al primo colpo non ho avuto dei problemi. Perché mi è dato il pulsante sbagliato, cazzo. Andavo a accendere la luce e non c'era corrente. E allora cosa hai fatto? E allora mi sono fatto cambiare il pulsante che era difettoso e adesso la corrente c'era. Hai capito? Per la lampadina. L'hai fatto solo l'impianto luci, no? E gli impianto luci tutto in canaletto ho fatto. Un casino, cazzo. Che ho lavorato come un cane. Per fare i buchi ho dovuto usare il cacciavite, cazzo, nel gasbetto. Perché non c'aveva la trappola. Ma non aveva la trappola? No, io non ci ho pensato a portarmela appresso il mio. Perché non mi ha detto niente. Se avessi saputo mi sarei portato il trappola, avrei fatto in un'ora tutto. E invece quanto ci è piegato? Alle 4 e mezzo ho finito di sera, dalle 10 e mezza quasi 11. Quanto ti ho messo in mano? Molto. E gli ho chiesto 30. Già va bene. Che è 30? Almeno 60 te ne poteva dare, no? Ehi, vabbè, no, me ne frega un cazzo. Per prima volta l'avevo fatto a voi. Non me la fotti tutta. E vabbè. A meno che cazzo poteva dire te, Antonio. Te a 30 euro, 50 euro, cazzo, va bene. Già lo so, andava bene anche 50, ma che sto 30, almeno, hai capito, hai giovinito, in pratica. E va bene così, già, non me li ho spesi, stai tranquillo. Ce li ho ancora, ho comprato due pacche di sigarette e la roba l'ho fatto col bancomat. E almeno ti prendi un po' di roba per mangiare, Antonio. L'ho fatta ieri sera la spesa, c'avevo 200 e passa euro ancora, 250, meno 30 di ieri quasi, quindi sono 200, una cosa del genere. Già va bene Antonio. Adesso domani mattina devo andare al comune per fare la domanda per la casa popolare. Ti conviene farla a te, già te l'hanno, vabbè non sarà per adesso, però te l'hanno, almeno ti mettono in lista, capito? Una volta che hai fatto la domanda per la casa popolare, per i fatti tuoi sei tranquillo. Se te la dal monte hai fatto 13, guarda. Perché gli altri lotti non ti conviene, è un casino. Zona di Monte, Rosello, via Giovanni Pascoli, la via vicina di fronte alla cosa dove c'era il parcheggio, cioè le auto della polizia, lì va bene anche, adesso non ricordo come si chiama quella via lì. Lì tutto pieno di case popolari. L'importanza che me la doglia, però cosa ci vuole? Ci vuole il modello ISE e poi cosa ci vuole? Nulla, quanto mi ricordo io non ci vuole il modello ISE e boh. E poi forse la richiesta del senso sociale, non me lo ricordo, basta che tu vai lì al primo piano, a Corte Santa Maria, c'è, come si chiama, fai la graduatoria o dici di darti il coso per l'affitto e ti danno 300 euro per l'affitto, hai capito? Almeno la casa la trovi per i fatti tuoi, oppure intanto fai la domanda per la casa popolare provvisoriamente. Finché c'hai per due o tre anni il contratto, puoi trovarti la casa come vuoi, capito? Adesso chiedo un po' cosa chi è? Ci vuole, che documenti ci vogliono e poi vediamo un po'. È sicuro, sono bianco ancora, negro non sono, meno che non mi fanno in capo là. Ah, ho visto io come è. Iga, la dichi, grazie. Che ero con le nega c'è storico, anche le brasiliane non sono d'altro. A chi è Antone? È un maniaco quello, Giuseppe, un maniaco Chi è? Maniaco? È un maniaco Ah, chi c'è la parente di... coso? Di Paoletto. Allora. Che gli piace anche a lui il gioco delle calze. Il gioco della calzetta li fa. Ma più bello sta da te. Codici d'ascolti. Ah, non è più bello sta. Ehi, sta piovendo qua. Adesso fra un po' devo prendere le cose. Fra un po' esco, verso le 5:30, sì. Devo andare a prendere, fare delle fotocopie. Per andare al monte ogni mattina a fare il foglio ISE, così me lo... In 15 giorni ce l'ho. Ah, io ho capito. Oi. Prima faccio il mio, poi faccio quello di Giampiero. Vabbè, fai bene, fai bene. Quello di Giampiero è più complicato, c'è da fare 7:30 mi pare, altre cose varie, non mi ricordo adesso. Il suo è più complicato perché lui c'ha la pensione, capito? Quindi devo fare il foglio di giacenza, dichiarare quanto l'anno di pensione ogni mese, quindi dopo portare i fogli. Sì, ma questa cosa non se ne deve occupare tua sorella invece. Ho capito. Ho detto, non se ne deve occupare tua sorella. Sì, questa non la faccio io, perché tanto che sto andando ci vado io. Faccio, consegno prima il mio, poi il suo. Lo faccio la prossima settimana, se deve fare... Deve fare la domanda per mettersi i denti nuovi Giampiero. Poi non ho capito per cosa li usi, ma comunque sia. Anzi, vuole sapere come li piazzano? Perché ci vuole uno che venga a casa, gli prende l'impronta, dopo che gli prende l'impronta gli faranno la dentiera. A meno che non se la mangi la dentiera di notte. Mi ti stanno chiamando, Giuseppe. E chi è? Il negro! Un sciabuco, lo sabù. E te bolese. Ah, tu che stai arrivando terra a terra. Ma chi è, Antone? Non lo so, che maniaco deve essere. Mettiti dentro la bolla, maniaco, così almeno ti sente, Giuseppe. Un sciabuco. Talete, baradosiasa. Giuse. Ah, Giuseppe si è capottato. Cos'è? Pensavo che ti eri capottato, ho detto. No, non sono capottato. Devo andare in bagno adesso. Hai capito? In bagno devi andare a fare la cacca. Mi sto tutto quanto scendendo. Cos'hai mangiato, pisello? No, ho mangiato pasta e sofficini. Io ho mangiato piselli stamattina. Speriamo di non cagarmi addosso, se no già lo faccio da fare. Prima di andare entro in bagno e vedo un po'. Io lo sai che piselli con le uova fanno un odore strano. Già lo so. Mi senti? Certo che ti sento. Specialmente guarda, quando fai uno scorreggio dentro l'ascensore mi. Ehi, chi entra, poveraccio? Gli diventano i capelli bianchi. Ma chi era quello che mi stava cercando? Non lo so, si è abbassato del tutto, adesso non ho più sentito. Avanti l'amico! Sparito, Non sarà l'amico tuo, no? Ciu che ciu. Tonello. Dimmi tutto. Non sarà l'amico tuo, no? Che cosa? No, non l'ho più sentito. Da quando gli hanno messo fuoco lì a Santa Maria non l'ho più inteso. Per me è... Gli hanno minacciato senz'altro e è sparito la circolazione, cosa ne so? L'ho sentito due giorni prima che succedeva quel fatto lì, dopodiché non l'ho più inteso, di solito entrava a sfottere. Adesso non l'ho più sentito. Quindi evidentemente hanno minacciato anche a lui che gli mettono fuoco magari a casa la macchina, cazzo, cosa ne so io. Ha ricoverato all'ospedale. Hai capito? No, non ho capito, dimmi. Ho detto, se l'ha ricoverato lì in ospedale, perché deve essere, gli hanno troccato le ossa. Bruno, la verità non lo so. Però è sparito, proprio è sparito la circolazione, non so niente, non è neanche più entrato, di solito entrava, perché si mette sempre all'ascolto. Evidentemente l'hanno buttato fuori anche credo, cosa ne so che io. Già lo sai che quel posto lì è un troiaio, sono tutti abusivi e tutti padroni. Quindi a un certo punto se uno rompe le balle a uno e all'altro, alla fine è me. Sono arrivato a mettere fuoco, quindi c'è qualcosa di grosso lì, sta tranquillo. No, io intendevo anche l'altro amico tuo, hai capito? Ho capito. L'altro? L'altro amico tuo. No, neanche l'altro ho sentito. E l'altro amico, hai capito, l'amico tuo. Si sarà deleguato anche quello, cosa ne so. E già lo sai io, se c'è lui non parlo. Ehi, a poco prendio. Mica non c'ho stazionale, era ora, ragazzi. Quando piove non ho stazionale in antenna. Meno male. Giuseppe. Vernia. Strozzata vuole, Vernia. Uscia poco. E allora, in ogni semmo. Metti l'ombrello, sennò te ne scende un diluvio. Ah, non ho capito. Ho detto, prenditi l'ombrello quando vai là. Ehi, hai già dipinto l'ombrello, mi prendo. Oi. Così faccio queste fotocopie domani mattina, poi vado là. Domani ci sono fulmini, cazzo. Acqua e fulmine domani mattina. Mi usi. Ah, sta tranquillo, mia baracca non vuoi parlare, solamente con quelle antenne bazooka. Sono tutte in plastica. Gli hanno prendono fuoco quando ci sono i fulmini. O la canna da pesca. No, la canna da pesca, secondo che canna da pesca è, non ti conviene, stai tranquillo, perché sono fatti a punta. Qualsiasi punta che metti in ferro o in plastica attira i fulmini. Non lo sapevi? C'è quell'antenna accanto che questo sta facendo, sta facendo bing, bing, bing. Ma è logico che fa boom, l'importante è che non scenda giù, dove c'è la ferrovia, se no il butto te lo fanno fare a teme, perché ti fanno pagare tutti i danni, se dovesse partire la linea elettrica e va in corto. A parte ti spacca in due lo stilo, perché mi sembra ci sono 5.000 volts, quindi figurati come diventa lo stilo in alluminio, si apre in due. Perché c'è gufo, dormito? Non è ancora entrato Luca, lo gufo. Morta ci sua. Adesso dovresti sentire Giuseppe. Eh? Che adesso dovresti sentire Giuseppe, che sei più forte di segnale. Giuseppe? Ehi. Sono più forte io di segnale. E adesso sei 9, poco fa i 2-3. Chiama Giuseppe, capace che ti senta adesso. Poco fa, adesso siamo proprio nella stessa posizione. E se per la stessa radio? No, adesso sei 9, poco fa eri segnale 1, 2 non di più. Giuseppe arriva a 3, perché è in movimento, sempre, da una camera all'altra. Gli ho dato la diamond a piazzare dentro casa, solo che è in 4 mura non esce nulla. Luca, è qua cuomane. Mia l'altro, mi ha dato l'io. Qua cuomane. Ok. Natalino, come è 2-2, che è 2, che è? Vai, cuomane, un briacone fragico. Io ti ho chiamato Natalino, vai a fanculo, ero lì a coso, fino alle 6:30, in coso Vicoga. Non è sentato nulla in coso, in PMN, intanto Gio Maria e basta. E quando? Antone, quando mi ha chiamato? Stasera non c'ero, sto arrivando che stavo rinnovandomi la patente. E io ho detto ieri, non oggi, ieri sera. Ieri mattina la verità c'era. Ho fatto un lavoro a Angelo, in Corso Vicco. Io ho fatto l'impianto elettrico nell'altro ufficio che si è aperto. chi è Angelo? Quello che è Becchino. E vabbè, già me lo dici un altro momento. Eia, Pilo mi, Angelo Pilo, quello che c'ha la... prima di quello che vende le bandiere. Ah, ho capito. Ah, fianco c'è il bar, Miri, il bar di quella vecchietta che adesso non c'è più, che lei è in pensione, c'è la figlia. E poi sono due sorelle, una si assomiglia con l'altra. Sì. Andà bene, no, ieri ce l'avevo spento, se vuoi io lo lascio sempre acceso qua, non c'è problema. Siccome ti ho chiamato un paio, due o tre volte ho chiamato, gli ho detto, ah, gira, gira, te lo invito al caffè se viene qua, in questo vicco. Tanto c'è il bar. E invece non c'è quanto il giorno. Stasera non c'ero lo stesso. Perché ero a farmi, a rinnovare la patente. Sto rientrando adesso. Ho acceso perché sul 10 non c'è nessuno. E già l'ho notato che non c'è nessuno sul 10, infatti. Ce l'ho acceso quello di baracchino, l'FM500S. E non c'è manco un cane. Esatto. Ma quel po' uomo di Luca dov'è? Già c'è, avanti Luca. Mi sto preparando a fare la spesa. Sì, vai, vai a fare la spesa, va. Ma ti credi che io non mangio come te mangi tu, mi? Ma te l'immagini questo Luca, Ali? Ehi, tutti i giorni mangiami, hai capito? Cazzo, a me non mangia bene bistecche, salsiccione, porcetto. E adesso che mangia anche pane cotto lui. Ha gettato il telefono. Eia. Beh, beh, ma gettato un brodino di mammo. Ma vero? E lui? Io lo dico a Concetta, mica si può comare, E io già lo dico a quell'altra signora lì. Che sei ubriacone tragico. Ah, mica lo dico a Concetta, che sotto tavolo c'è la bottiglia della sambucca, Sì. Luca ti vuole? Con c'è quella sotto al tavolo in attarino, c'è la bottiglia di sambucca. Sentita, tu? Ehi, oh, fidati, fidati. Adesso quando trovo quella signorina glielo dico che sei poco umane. È vero. E anche noi. Ha detto giù mare, dammi tu sì. Sono tutto gonfio, sto uscendo, ci sentiamo dopo. Sì, ciao, ciao. Eia, a te. Anch'io chiudo a dopo, ciao. Grazie, sono Bisusi. Yeah.